7. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Un fatto è certo, la minaccia del terrorismo di matrice islamica si è aggravata in forme diverse e in diversi teatri di crisi. Ecco così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, iniziamo con questa frase, certo non rassicurante, del ministro degli esteri Gentiloni, ma d'altronde ci eravamo lasciati, no, venerdì, con notizie purtroppo molto inquietanti, con quello che era successo il 7 gennaio, la strage a Charlie Hebdo, e poi dopo i blitz con l'assedio durato delle ore ai killer che poi sono stati uccisi, purtroppo sono morti anche degli ostaggi, poi la marcia di ieri a Parigi, tanti eventi che si sono susseguiti in questi frangenti. E oggi naturalmente poi continuano le scie, adesso si parla anche, c'è la polemica sul trattato di Schengen, che è quello che permette la circolazione di 400 milioni di cittadini in Europa da uno Stato all'altro, no, anche se Gentiloni stesso, avete sentito prima, ha detto non c'è pericolo che si possa mettere in discussione il trattato di Schengen. Parleremo di questo naturalmente stasera, e anzi vi chiedo su questa cosa, siccome, come vi dirò tra poco, mercoledì, tra due giorni, sarà ancora in edicola il settimanale Charlie Hebdo e ci saranno nuovamente delle nuove vignette su Maometto. Cosa ne pensate? Qualcuno dice è un riaffermare la fede nella libertà di informazione, di espressione cara alle democrazie occidentali, qualcuno dice è un modo inopportuno per fomentare ulteriormente la tensione. Voi che posizione avete? C'è la pagina Facebook, come sempre, di Effetto Notte, per i vostri commenti è lì sempre per voi, e poi c'è anche il numero per gli sms, che è 349 238 6666. Parleremo anche delle novità che riguardano il caso Cucchi, e poi ci sarà, dovremo raggiungere l'ex segretario della CGIL, attuale eurodeputato, Cofferati, per queste elezioni, queste primarie, scusate, al veleno che ci sono state in Liguria. Ma partiamo con la giornata. Francia, dopo la marcia di solidarietà a Parigi, continua la caccia ai complici dei terroristi, e mercoledì Charlie Hebdo sarà in edicola con nuove vignette su Maometto. Le misure di sicurezza in Italia, il ministro Alfano esclude che il Vaticano sia a rischio attentati, rafforzati intanto i controlli nel quartiere ebraico a Roma. Fiat Chrysler annunciate 1500 nuove assunzioni a Melfi. Il ministro Padoan a Strasburgo, la recessione in Italia finirà nel 2015, dice, il debito italiano è sotto controllo. Il caso Cucchi, i giudici depositano le motivazioni della sentenza che assolse tutti gli imputati e chiedono ai PM di avviare nuove indagini. La rivelazione di Emma Bonino, ho un tumore, faccio la chemio ma non smetto con la politica, così dice alla radio. Fumo, si va verso lo stop nelle auto in presenza di minori. Calcio, Cristiano Ronaldo vince il pallone d'oro per le donne, Vanna Dean Kessler. Partiamo quindi da Parigi, dalla Francia, dopo lo shock degli attacchi terroristici, i blitz con ore di assedio delle teste di cuoio, i 20 morti, scusate, complessivi, e poi il cordoglio, la solidarietà, la grande marcia di ieri, in Francia è il momento del rafforzamento delle misure di sicurezza. La Francia protegge scuole ebraiche e sinagoghe e lo fa schierando quasi 5.000 agenti. Dopo la notizia che Koulibaly, il killer della vigilesse di 4 ostaggi, poi ucciso dalla polizia, aveva in mente di attaccare un asilo ebraico a Montrouge. Altri 10.000 militari saranno dispiegati nelle prossime ore a protezione di obiettivi sensibili in tutto il paese. Forze che vanno ad aggiungersi a 4.100 gendarmi già operativi. Intanto la caccia all'uomo non si ferma perché, come ha spiegato il ministro dell'interno francese Manuel Valls, uno dei terroristi aveva certamente un complice. Non si tratta però, come si riteneva, della fidanzata di Amédée Coulibaly, Hayat Boumediene. La 26enne, è stato accertato, 5 giorni prima dell'attentato, si trovava infatti in Turchia, paese dal quale è passata in Siria l'8 gennaio. Il premier Valls ha anche annunciato una proposta che prevede il totale isolamento degli integralisti islamici in carcere. Il tutto mentre Charlie Hebdo annuncia di stare per uscire con nuove vignette su Maometto. Il giornale non rinuncia al suo spirito e quindi al diritto di blasfemia, ha fatto sapere il legale del settimanale satirico, che mercoledì uscirà con una tiratura eccezionale di 1 milione di copie in 16 lingue. Dopo 3 giorni di sangue che ha provocato in tutto 20 vittime, la Francia ha assistito ieri alla più grande manifestazione della sua storia. Oltre 2 milioni di persone, 50 capi di Stato, sono scesi in piazza Parigi per manifestare contro il terrorismo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quindi su questo vi chiedo stasera se avete voglia di dire la vostra, se sia opportuno secondo voi che mercoledì ci siano nuove vignette su Maometto nel settimanale Charlie Charlie Hebdo, nel settimanale satirico francese Charlie Hebdo, oppure se ritenete che si butta ulteriore benzina sul fuoco. Il numero per gli sms è il 349-238-6666 e poi la pagina Facebook di Effetto Notte, Sava Sandir, sempre per voi. E lunedì ci sarà un incontro dei ministri degli esteri a Bruxelles sul contrasto ai terroristi, come ha annunciato il ministro degli esteri Paolo Gentiloni nella sua informativa oggi al Senato sugli attacchi in Francia. Anche in Italia si intensificano le misure di sicurezza, ma il ministro Alfano, ai microfoni di Simone Spezia, ha escluso che il Vaticano sia uno dei prossimi obiettivi dell'ISIS. Sentiamo. Nel sistema delle nostre relazioni con le altre autorità di sicurezza degli altri paesi abbiamo ulteriormente verificato questa informazione e a noi non risulta. Quello che invece risulta e che è purtroppo evidente è che il Vaticano è stato più volte citato, è stato più volte evocato nei messaggi di quello lì che si è autoproclamato califfo, e la bandiera nera sul cupolone di San Pietro è un messaggio che non è difficile da interpretare e che io non leggo solo simbolico e non leggo solo in riferimento all'Italia. Ecco perché noi non sottovalutiamo nessuna ipotesi, neanche quella apparentemente più labile, flebile, tenue, e non sottovalutiamo nessun indizio. Ma in riferimento a quello che hanno detto alcuni organi di informazione, noi abbiamo fatto ulteriori verifiche e non ci risulta. A Roma sono stati rafforzati i controlli anche nel ghetto e davanti alla scuola ebraica, e questa mattina il Papa ha parlato proprio dei recenti fatti di Parigi. Auspico, ha detto, che i leader religiosi, politici e intellettuali, specialmente musulmani, condannino qualsiasi interpretazione fondamentalista ed estremista della religione volta a giustificare tali atti di violenza, così ha detto Papa Francesco. Vedo già un messaggio tra i vari al 349-238-6666. Io Charlie mercoledì lo compro, dice Roberto da Milano. Ma passiamo anche agli altri argomenti. La notizia che viene oggi da Fiat Chrysler, che torna ad assumere in Italia dopo 10 anni di riduzioni continue degli organici. L'annuncio è arrivato direttamente da Sergio Marchionne, parlando con la stampa italiana in occasione dell'inaugurazione del Salone dell'Auto di Detroit. Assunzioni che il gruppo avrebbe fatto comunque, ha precisato Marchionne, che però ha lodato il Jobs Act chiedendo che quando entrerà in vigore dai contratti interinali si passerà a quelli a tempo indeterminato. La cosa importante è che dal punto di vista internazionale, cioè quelli che stanno in questo salone che non sono italiani, guardando l'approccio dello Stato in relazione ai dipendenti, riconosce, credo adesso, nel sistema lavorativo italiano una realtà parallela a quella che troviamo noi nella maggior parte degli altri paesi in cui operiamo. Quindi non siamo più la realtà anomala, si può fare. E questa è una cosa importante. Io non ce l'ho né con Landino, poi bisogna dire la verità. Questa è una realtà. Assumere gente, fare macchine, vendere, esportare. La risposta è questa: lo facciamo con un atteggiamento diverso. Quelle 1000 persone l'avremmo assunto lo stesso. L'avremmo assunti come interinali, cosa che faremo lo stesso fino a quando il Jobs Act diventa effettivo. E adesso l'intervento del ministro Padoan a Strasburgo, di questo poi parleremo collegandoci direttamente con Strasburgo dopo, mentre si chiude, e questo è il suo intervento, mentre si chiude il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, ha detto che è un bilancio molto positivo, non solo sulle misure concluse, ma anche sull'impronta data al dibattito, alle priorità della nuova Commissione, crescita, investimenti, occupazione. 6 mesi fa non eravamo a questo punto, ha detto Padoan, e poi ha rassicurato l'Italia. La recessione, ha detto, nel 2014 si è affievolita, nel 2015 scomparirà, così dice il ministro Padoan. E adesso passiamo alla politica, con le elezioni per il Quirinale, con il prossimo addio di Giorgio Napolitano. Un passaggio, quello delle dimissioni di Napolitano, che non dovrebbe riservare sorprese. La lettera sarebbe stata già scritta e pronta per essere consegnata mercoledì mattina a Governo e Parlamento. Non a caso domani il Capo dello Stato saluterà il corpo dei corazzieri e i dipendenti del Quirinale. Questo al termine di una giornata che segnerà la fine ufficiale del semestre europeo a guida italiana, uno spartiacque al quale Giorgio Napolitano ha fatto sempre riferimento per compiere il passo indietro. Ma cosa succederà da mercoledì? Spetterà alla Presidente della Camera Boldrini convocare entro 2 settimane nel Parlamento in seduta comune. Scatteranno quindi le votazioni. Le prime 3 richiedono l'approvazione dei 2/3 dell'Assemblea. Dal 4° scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta. A questa votazione, secondo indiscrezioni, guardano con fiducia Renzi e Berlusconi, forti di un'intesa che contemplerebbe anche il futuro inquilino del Quirinale e in grado di raggiungere il quorum previsto. Sempre secondo indiscrezioni esisterebbe una rosa di nomi esaminata durante le feste dal Presidente del Consiglio e dal Cavaliere. Nella lista comparirebbero, tra gli altri, Veltroni, Meloni, Fassino, Mattarella, Castagnetti, Casini e Finocchiaro. Sullo sfondo resta il nome di Romano Prodi, appoggiato con motivazioni diverse da un fronte parlamentare trasversale, da Sella alla minoranza PD, da diversi centristi a parti dei 5 Stelle, fino ai fittiani di Forza Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso l'annuncio doloroso di Emma Bonino a Radio Radicale. Recentemente mi sono sottoposta a dei controlli medici routinari che però hanno evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro. Si tratta di una forma localizzata e ancora asintomatica, ma ciò nonostante richiederà un trattamento lungo e complesso di chemioterapia che è già stato iniziato e che durerà almeno 6 mesi. Non sono intenzionata a interrompere le mie attività, perché da una passione politica non ci si dimette, non ci si può dimettere. A tutti coloro in Italia o altrove che affrontano questa o altre prove, voglio solamente dire che dobbiamo tutti sforzarci di essere persone, di voler vivere liberi fino alla fine. Insomma, io non sono il mio tumore. Dobbiamo assolutamente pensare che siamo persone che affrontano una sfida che è capitata. Questa è Emma Bonino, stavo leggendo anche un messaggio di Silvia che dice: voglio mandare un grandissimo abbraccio a Emma Bonino, chiamata ad affrontare una difficile prova, vorrei dirle che non è sola e tante persone amiche la sostengono e fanno il tifo per lei, forza Emma, e credo che in moltissimi si possano unire in questo incoraggiamento, in questo abbraccio. La cronaca adesso col caso Cucchi: sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui lo scorso ottobre a Roma sono stati assolti in primo grado, vi ricordate, i 12 imputati, e si chiedono nuove indagini ai PM. Di questo poi parleremo più tardi, dovremo raggiungere il legale della famiglia Cucchi per capire effettivamente se è una novità e cosa potrebbe portare. C'è una novità che riguarda il fumo, divieto di fumo nelle automobili in presenza di minori. Questo è l'obiettivo del decreto al quale sta lavorando per il momento la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, che da tempo sostiene la necessità di tale misura, essendo ormai acclarati, afferma, i danni da fumo passivo soprattutto tra i giovanissimi. E per chiudere il calcio, Cristiano Ronaldo vince di nuovo il pallone d'oro, batte Messi e Neuer, il terzo della sua carriera dopo quelli vinti nel 2009 e nel 2013, e per il calcio femminile la campionessa a cui va il pallone d'oro è Nadine Kessler. Ne parleremo in modo più approfondito verso la fine della trasmissione. Intanto, prima di aggiornarci per quanto riguarda chi sta viaggiando in questo momento, volevo leggere ancora diversi vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito della dell'annuncio che dopodomani Charlie Hebdo pubblicherà delle nuove vignette su Maometto. Silvia dice: la satira è satira, si è sempre fatta, non vedo perché smettere ora, libertà, manifestiamo per questo. Poi Lidia: la libertà ha sempre come limite i diritti degli altri, compreso il diritto al rispetto della propria fede. E un altro ascoltatore scrive: tutti i giornali dovrebbero pubblicare vignette. Davide: sì, tante vignette, da noi si prende in giro tutto, a partire dal Papa ha sbagliato ogni tabù. E poi Paolo dice: io resterei per un attimo affacciato alla finestra del buon senso, intendo. Noi affacciamoci a sentire quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sto guardando i vostri messaggi, vedo un'agenzia uscita pochi istanti fa, il titolo è: Al-Qaeda minaccia ancora la Francia, finché i soldati, tra parentesi francesi, occupano paesi come Mali o Centrafrica e bombardano la nostra gente in Siria e in Iraq, e finché la sua stupida stampa, quella francese, continuerà a offendere il profeta, la Francia si esporrà al peggio. Questa è la minaccia di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, pubblicata oggi dai siti jihadisti e ripresa da alcuni media online francesi. Insomma, questo è il clima, purtroppo. Ma adesso vi riassumo anche brevemente tutte le altre notizie. Charlie Hebdo, mercoledì in edicola con nuove vignette su Maometto, caccia intanto al complice in Francia, la cancelliera tedesca Merkel dice a proposito delle polemiche su Schengen: non si tocca il trattato. E poi Fiat Chrysler che torna ad assumere 1500 nuovi posti a Melfi e via la cassa integrazione, vengono riassorbiti anche i lavoratori che erano in cassa integrazione. Emma Bonino in diretta alla radio dice: ho un tumore, faccio la chemio ma non smetto con la politica, dalla passione non ci si dimette. Renzi da Napolitano alla vigilia della chiusura del semestre di presidenza residenza europea, Padoan dice in Italia la recessione scomparirà nel 2015. Il caso Cucchi, la Corte alla Procura dice ora indagate sui carabinieri dopo aver depositato le motivazioni della sentenza di assoluzione. Poi un decreto per vietare il fumo in auto con i bambini, questo è un decreto a cui sta lavorando la ministra Lorenzin, e il pallone d'oro che va a Cristiano Ronaldo. E poi per quanto riguarda le donne, Nadine Kressler. Partiamo quindi ancora dalla vicenda di Charlie Hebdo, dopo lo shock per la strage al settimanale satirico dello scorso 7 gennaio che ha provocato 12 morti. Il doppio blitz venerdì in cui sono stati uccisi 3 killer e sono morti anche 4 ostaggi, 20 insomma nel complesso sono stati i morti tra mercoledì e venerdì scorso. Ieri c'è stata la storica marcia a Parigi, grande manifestazione di solidarietà alla Francia sotto attacco da parte del terrorismo jihadista, confermato come abbiamo sentito adesso, alla quale hanno partecipato oltre 2 milioni di persone, più una cinquantina di leader mondiali. Intanto si estendono, come sentivate, le indagini sulla cellula di attentatori che il 7 gennaio scorso hanno attaccato la redazione del settimanale satirico. Sono state rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto alle scuole ebraiche, e c'è la polemica in Europa sul trattato di Schengen, vi dicevo, l'accordo di libera circolazione che consente appunto la libera circolazione di 400 milioni di cittadini europei al di fuori dei propri confini. Sia Angela Merkel che il ministro italiano degli esteri Gentiloni ha detto non si mette assolutamente in discussione questo trattato. E poi vi dicevo la notizia secondo la quale mercoledì, tra 2 giorni, ci saranno nuove vignette su Maometto nel prossimo numero in edicola di Charlie Hebdo. Ci sono moltissimi i vostri messaggi al 349-238-6666, le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Note che continuerò a leggere tra poco. E secondo gli Stati Uniti il Vaticano potrebbe essere il prossimo obiettivo, anche se Alfano smentiva, dice per il momento è tutto sotto controllo. E intanto in Francia cosa è successo? Che ci sono stati, dopo quanto è successo, più di 50 atti anti-Islam, quindi si sta creando una specie di islamofobia. Sono stati recensiti in Francia 50 atti anti-Islam da mercoledì scorso, che è il giorno appunto dell'attacco terrorista al periodico Charlie Hebdo. E sentiamo, per quanto riguarda Roma, dove sono state rafforzate nel ghetto, che è il quartiere ebraico di Roma, le misure di sicurezza, sentiamo il portavoce della comunità ebraica di Roma, Fabio Perugia, che è stato intervistato da Andrea Viali. I primi che si devono mettere in allerta sono i fedeli della Chiesa Cattolica. Se indicano Roma non è di certo per venirsi a fare una passeggiata al Colosseo, ma indicano San Pietro come obiettivo. Chiaro è che anche gli obiettivi della comunità ebraica sono obiettivi sensibili. Qui al ghetto come si vive questa situazione? Ovviamente c'è un'attenzione maggiore da parte dei carabinieri. Gli ebrei romani vivono tranquillamente questa situazione, nel senso che continuano la loro vita. Anzi, questa mattina abbiamo riaperto le porte del Tempio per una grande cerimonia in onore dell'insediamento di nuovo rabbino. Ieri abbiamo riempito il Tempio, mentre a Parigi purtroppo lo avevano chiuso, per celebrare l'anniversario delle nozze di Sami Modiano, ex deportato ai campi di sterminio, e sua moglie Selma. Quindi noi rispondiamo con la vita e con continuare a fare le stesse cose che facevamo il giorno prima. Il ghetto di Roma, lo ricordiamo, purtroppo conosce bene la violenza del terrorismo. Ai tempi erano palestinesi nell'82, è una ferita forse ancora aperta. Qua davanti al Tempio Maggiore di Roma c'è un largo che è intitolato Stefano Caitasce, vittima di quel vile attentato del 9 ottobre del 1982, quando un comando palestinese irruppe nel portico d'Ottavia e con delle granate ferì decine di persone e uccise quel bambino. Sicuramente la nostra è una comunità che è stata già ferita dal terrorismo, insomma vorremmo non rivivere mai un incubo del genere. E poi la testimonianza, sempre raccolta da Andrea Viali, di Amitai David Sermoneta, che è il rabbino israeliano di origine italiana che vive fra Roma e Gerusalemme. Sentiamo cosa dice. Ti dico la verità, io vengo da Gerusalemme, vengo da Israele, che c'erano 12 anni fa, attentati che ogni settimana un autobus o uno o due era scoppiato e la gente viveva molto normale perché non c'era un'altra possibilità. Io sono tranquillo perché qui, quanto che noi ci sono più o meno attentati in Francia, e niente confronto Israele. E se in Israele noi come cittadini abbiamo cominciato e continuato la vita normale, anche adesso siamo normali. E se vogliamo fare vincere i terroristi, dobbiamo dimostrargli paura. Questo vogliono i terroristi, solo farci paura. E questa, quando noi ci dimostriamo la paura, allora loro si dicono, ah, hai visto? Questo volevamo. Allora noi non abbiamo paura, la vita è normale, e hai visto che grazie a Dio non c'è niente. Io ti dico, da un posto che sono vissuto tanti attentati, non ho uno. E il resto della comunità la pensa come lei? Il resto della comunità, perché non hanno passato questi, sono entrati in panica, cominciano a dire, vedete, come che io ho passato la vita, io ti dico che non c'è aver paura da niente. Non tutti, questa è la mia opinione. E questa è la sua opinione. Intanto vedo le vostre opinioni al 349-238-6666, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Suor Angela scrive da Pavia: spero con tutto il cuore che le nuove vignette non costino la vita ad altre persone, ma è proprio necessario, si chiede. E poi un altro messaggio: è opportuno che si smetta immediatamente di dare corda al mondo musulmano, a costruire mausolei, ad espandere la religione musulmana nei paesi occidentali. Basta, siamo nel 2014, in realtà siamo passati da un po' di giorni al 2015, avverto l'ascoltatore. Dice: non dovremmo credere in un libro scritto da un uomo, sia la Bibbia o il Corano. Questo può essere degna di riflessione, questa cosa. E poi vignette no, dice qualcun altro, ma fuori dalla nazione gli islamici, un altro sì alla libertà di espressione, no al diritto di blasfemia. Insomma, sono tante le opinioni. Assolutamente d'accordo, dice Antonio, d'accordo sulla pubblicazione. Grazie Roberta. Questo Marco: noi cristiani siamo sommersi da vignette sul Papa, su Gesù, perfino su Dio. Non ci siamo mai detti quello deve morire perché offende i cristiani. I musulmani devono smettere di sentirsi offesi per ogni bau bau. Sentiamo, per chiudere questa pagina, anche che cosa ha detto il ministro degli esteri Gentiloni, vi dicevo, a proposito di queste polemiche sul trattato di Schengen, se è il caso, come chiedeva anche per esempio il presidente della regione Lombardia Marroni, in vista dell'Expo, di chiudere di abolire per il momento, insomma di sospendere il trattato di Schengen. Quanto a Schengen, di cui si è discusso in questi giorni, deve essere chiaro che nessun governo europeo parla di sospendere il sistema Schengen o di ristabilire controlli alle frontiere dei paesi dell'Unione. Sacrificare la nostra libertà di circolazione, per la quale si è lavorato e ci siamo battuti per decenni, sarebbe un prezzo inaccettabile da pagare al terrorismo e alla sua iniziativa. Bene, direi a questo punto che con un altro messaggio, poi semmai se c'è tempo ritorneremo sui messaggi. Elena: ho già scritto che le vignette in questione non mi fanno ridere, ma questo è personale, non mi sembra personale la convinzione che sia necessario rispetto reciproco sempre, la mia libertà trova un limite in quella degli altri. E adesso cambiamo tema. Parliamo di buone notizie che sembra arrivino per l'Italia da Fiat Chrysler, che annuncia 1500 nuovi posti di lavoro per lo stabilimento di Melfi in Sicilia e la chiusura della cassa integrazione con rientro quindi di 5418 dipendenti. Andato lì dritto dritto a Detroit il nostro Andrea Malanna del Sole 24 Ore. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, buonasera a te e a tutti. Ti faccio una piccola correzione, scusa, Melfi è in Lucania e non in Sicilia. Scusami, in Lucania, in Basilicata, certo, scusa, un momento così. Lo dico anche per gli amici lucani. Certo, non si offendono, si parla a volte poco della Basilicata, ma diciamo che Melfi è lì e ci sono ottime notizie per Melfi. Così Andrea, no? Sono state annunciate da Detroit. Certo, sono state annunciate un po' a sorpresa appunto nella mattinata qui di Detroit. Sergio Marchionne ha sempre un certo senso della notizia e ha dato quindi questo messaggio sicuramente buono, oltre 1000 assunzioni e giustamente ha sottolineato, non mi ricordo neanche quando è l'ultima volta che abbiamo fatto 1000 assunzioni in un colpo solo. Sappiamo tutti che il mercato dell'auto in Italia va malissimo da parecchi anni, le vendite di automobili sono praticamente dimezzate dal 2007 al 2013, l'anno scorso c'è stato un piccolissimo recupero, quindi sicuramente una buona notizia che viene dal fatto che a Melfi si producono dall'anno scorso, appunto da qualche mese, due auto sulla stessa piattaforma, cioè la Jeep Renegade, che è una Jeep piccola che forse qualche lettore avrà già visto in giro perché è già in vendita da qualche mese, e la Fiat 500X, che arriverà invece nelle concessionarie tra la fine di questo mese e l'inizio del prossimo. Due auto, dicevo, che hanno come obiettivo anche quello di andare all'estero, quindi visto che in Italia le prospettive di una ripresa del mercato sono limitate e comunque non per subito, l'importante è riuscire a venderle anche all'estero, sia in Europa sia anche qua negli Stati Uniti, dove le due vetture arriveranno nel corso del 2015. Proprio partendo dall'ottimismo sui primi segnali sull'accoglienza di queste vetture, Fiat, anzi FCA come bisognerebbe chiamarla oramai, ha annunciato queste oltre 1000 assunzioni. In realtà l'aumento di posti di lavoro è di 1500 perché oltre ai nuovi assunti, che per ora saranno con contratto interinale, ci saranno anche 350 lavoratori che verranno spostati da Pomigliano e da Cassino a Melfi temporaneamente. Quindi 350 in realtà non sono nuovi assunti, ma c'è uno spostamento di questi lavoratori? C'è uno spostamento, poi verranno gestiti in maniera flessibile. Sappiamo tutti che nel primo periodo di produzione, quello in cui c'è più bisogno di manodopera, appunto sulle linee, anche per soddisfare gli eventuali picchi di domanda, poi verranno gestiti in maniera più flessibile, come peraltro, e Marchionne lo ha più volte sottolineato, è consentito, è permesso, diciamo, in qualche modo dal Jobs Act che è stato appena annunciato. Molti colleghi, e comunque abbiamo visto le reazioni anche oggi in Italia, hanno posto una relazione tra l'introduzione della nuova legge e queste assunzioni. Marchionne oggi ha detto, da un lato ha detto, ma noi li avremmo assunti comunque con contratto a termine, ma è evidente che la maggiore flessibilità che Fiat ha chiesto da tempo e che il governo sta mettendo in pratica, sappiamo che il percorso legislativo del Jobs Act non è ancora terminato, la nuova flessibilità fornisce all'azienda nuovi strumenti e quindi, diciamo, permetterà di applicare a questi nuovi 1000 assunti il contratto cosiddetto a tutele crescenti nel momento in cui tutti i paletti legislativi saranno a posto. Inizialmente avranno comunque anche loro un contratto a termine. Quello che diciamo è da considerare positivo, al di là della discussione sulla legislazione, è appunto che questo è un segnale congiunturale positivo. Si spera che possa essere seguito da segnali di questo tipo anche da parte di altre aziende man mano che la ripresa arriverà e procederà nei prossimi mesi. Così annunciato, diciamo, il ministro Padoan. Ti ringrazio intanto, Andrea Malanda, in Detroit. Ciao Andrea. Arrivederci a tutti, buonasera. Buon lavoro, buona continuazione. Adesso ci prendiamo una pausa, come al solito, a questo punto della trasmissione. Ancora qualche messaggio che sta arrivando sia per gli sms che sulla pagina Facebook di Effetto Note. Dice quest'altro ascoltatore: le religioni devono aggiungere democrazia, non limitare i diritti di espressione umana, ma indietreggiare. Sono assolutamente favorevole alle vignette. Non mi sembra, dice un altro, un segno di volontà di pace, qualcuno sicuramente pagherà. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi e in compagnia anche, oltre che degli ospiti, man mano anche dei vostri messaggi. Interagite con la pagina Facebook di Effetto Notte oppure con i messaggi al 349-238-6666. Diciamo, lo spunto che vi ho lanciato questa sera è, visto che dopo domani Charlie Hebdo, il settimanale satirico che ha subito quel sanguinoso attacco la settimana scorsa, sarà di nuovo in edicola con nuove vignette su Maometto, vi chiedevo qual è la vostra posizione rispetto a, diciamo, un'opinione che si è spaccata in due: chi dice che è giusta affermazione nuovamente di libertà di stampa e chi dice poco opportuno, non si fa che avvelenare ulteriormente il clima. Qualcuno dice, vediamo, non mi sembra un segno di volontà di pace, qualcuno sicuramente pagherà, quello che ho letto prima. Davide da Mestre: opportuno esattamente quanto può essere opportuna una passeggiata notturna in minigonna di una ragazza nello stesso quartiere dove è stata stuprata una settimana prima. Questo, diciamo, è un argomento sì che può essere alla larga così collegato, direi che è una cosa un po' diversa. Riccardo da Riccione: giusto continuare con la libertà di stampa, al contrario vorrebbe dire alzare bandiera bianca e consegnare l'Europa a queste bestie. Un altro: d'accordo con ogni forma di satira, anche e soprattutto dissacrante per limitare il potere delle religioni. Donata dice: certo, il buon gusto sarebbe augurabile, ma non si può conciliare con il concetto di satira. Nessuno viene obbligato a comprare una rivista i cui contenuti non condivide o che ritiene razzista. Il problema poi è chi decide divide il limite? Una buona domanda. Claudio, come si va ad avere una copia, visto che sarà tradotto in diverse lingue, spero anche in italiano? Dovrebbe uscire mercoledì con Il Fatto Quotidiano in Italia. Però adesso cambiamo argomento. E parliamo del caso di Stefano Cucchi. Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise d'Appello che lo scorso ottobre, vi ricordate, ha assolto tutti gli imputati per la morte del giovane geometra deceduto il 21 ottobre del 2009 nel reparto protetto dell'ospedale Sandro Pertini, una settimana dopo il suo arresto per droga. Ebbene, secondo queste motivazioni della Corte d'Assise, non è astratta l'ipotesi che la violenza sia stata commessa dai carabinieri che lo avevano in custodia dopo la perquisizione. Medici e infermieri furono attenti con lui. I giudici quindi hanno ritenuto opportuna la trasmissione degli atti al PM affinché valuti la possibilità di svolgere nuove indagini. Quindi la Corte, inviando tutto ai PM, vuole fare chiarezza a 360 gradi su un processo che ha lasciato molte perplessità sulla vicenda di Stefano, indagando anche su altre persone uscite dal processo. Questo lo chiedo al legale della famiglia Cucchi, avvocato Fabio Anselmo. Ben ritrovato, avvocato. Buonasera a voi, grazie, buonasera. Io ho visto, avvocato, a parte la domanda che già le facevo indirettamente, che Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, è da sempre in primissimo piano in questa battaglia per avere giustizia. Oggi mi pare di aver letto delle agenzie un po' contraddittorie tra di loro. Prima diceva che comunque questa possibile riapertura delle indagini è una cosa importante, un fatto importante, e poi però sulla pagina Facebook scriveva in realtà non mi aspetto nulla di buono. Vediamo se ritrovo anche la... ce l'avevo qui, la sua dichiarazione. Ecco, come la sensazione, dice Ilaria Cucchi, che comunque con questo fascicolo si faranno indagini per dimostrare che i due PM del primo processo hanno fatto tutto benissimo, cioè a dispetto dell'evidenza dei fatti sotto gli occhi di tutti. Meglio se a raggiungere questo risultato potrà essere, dice Ilaria Cucchi, un valente magistrato antimafia, magari sotto scorta, allora nessuno potrà dire nulla, nessuno. Vede, il problema è questo. Questo l'ha scritto prima. La cronologia è inversa rispetto a quella da lei descritta, ma a parte questo io credo che sia condivisibile. Ilaria Cucchi sta cominciando a capire come funziona purtroppo la giustizia italiana. Vedete, noi ci inorridiamo di fronte giustamente a crimini terribili ai quali assistiamo, come quelli recenti, successi a Parigi, inaccettabili, incomprensibili ed esecrabili. Però ci dimentichiamo che in casa nostra Stefano Cucchi è stato ucciso a botte, e questo io credo che sia un crimine ugualmente efferabile, esecrabile, inaccettabile. Nelle mani dello Stato è entrato sano e dalle mani dello Stato è uscito morto, nelle condizioni terribili documentate dalle fotografie che abbiamo esibito nel processo e che ha esibito Ilaria ai giornalisti. Questa è una verità inconfutabile, e se la giustizia italiana non è capace di processare se stessa, perché Stefano Cucchi è morto di giustizia, nelle mani della giustizia, difficilmente la giustizia italiana potrà insegnare alla società civile e ai cittadini, e anche nelle inchieste che riguardano la classe politica, una etica, una morale sotto il profilo ovviamente giudiziario, e quindi sotto il profilo del rispetto delle leggi, che possa essere accettata e condivisa da tutti. L'autorevolezza si perde in un processo di questo genere. Dopo 5 anni non si sa chi è stato a picchiare Stefano Cucchi, e soprattutto non si vuol sapere, e questo io lo dico, non si vuol sapere di che morte sia purtroppo morto. Questo è il concetto, ed è assurdo, è incomprensibile, perché ripeto, Stefano Cucchi non è morto in Nigeria, non è morto nel deserto del Sahara, non è morto in un quartiere in mano alla camorra, non è morto in situazioni e luoghi difficilmente accessibili, difficilmente controllabili, è morto nelle mani dello Stato, è morto sotto gli occhi e per opera dei pubblici ufficiali. Questo è un esempio che non può non mettere in difficoltà il sistema giustizia e il sistema Italia. Questo è quello che noi diciamo, e questo è quello che dice Ilaria. Ilaria capisce nelle righe delle sentenze, nelle nei meandri delle requisitorie che ha vissuto in questi 5 anni, che purtroppo qualche volta, e devo dire quasi sempre nel processo Cucchi, per fortuna non in altri procedimenti, si vuole più tutelare da parte di alcuni magistrati il prestigio e il buon nome dei colleghi piuttosto che esigenze di verità. Questo è quello che viene fuori. Dopo 5 anni noi ci ritroviamo praticamente punto a capo, tutti assolti per insufficienza di prove, senza una causa di morte, quando sotto gli occhi di tutti, tutto il popolo italiano, tutte le istituzioni, persino le associazioni dei magistrati hanno capito che Stefano Cucchi è entrato vivo e sano ed è uscito morto in quelle terribili condizioni. Le conseguenze giuridiche sono immediate e direi di scolastica applicazione. Quindi avvocato Anselmo, voi siete pessimisti su questa possibile riapertura di indagini? Assolutamente sì. Assolutamente sì, di sicuramente una vittoria per noi da un punto di vista morale, perché è il riconoscimento delle nostre ragioni, il riconoscimento direi effimero di quanto io avevo sostenuto all'udienza preliminare, cioè che ci avrebbero portato al massacro con un impianto accusatorio zoppicante e con un capo di imputazione assolutamente inadeguato e soprattutto con un sistema di consulenze di perizie pubbliche di Stato suicida. È stato un processo suicida a tutti e in tutti gli effetti e purtroppo gli esiti sono sotto gli occhi di tutti. Non si ha il coraggio di dirlo apertamente, ma così è. Occorre soltanto che i giudici, qualche giudice, e ce ne sono tanti e speriamo di incontrarne in questo percorso, altri abbia il coraggio di entrare nel merito di questa questione dal punto di vista medico-legale, dal punto di vista scientifico, prende il toro per le corna, come è successo per il processo Aldrovandi, e capisca che non è il caso di abdicare le proprie funzioni a favore di consulenti e periti che hanno agito in modo assolutamente non condivisibile, e non dico altro, e che è il caso invece di appropriarsi di una funzione giudiziaria che deve spettare solo ed esclusivamente ai giudici. Questo è quello che deve succedere, altrimenti Cucchi rimarrà un caso esemplare di negata giustizia. Avvocato Anselmo, io naturalmente vi faccio i migliori auguri, avremo modo di riaggiornarci se parte questa nuova indagine, vedremo anche che direzione prenderà. Ma guardi, noi contiamo più che altro sul ricorso per Cassazione. Contiamo sul ricorso per Cassazione, impugneremo la sentenza, ci auguriamo che il Procuratore Generale impugni la sentenza, perché la Corte è vero che fa alcune considerazioni condivisibili, ma tanto è vero che non si può abdicare, tanto è vero che non si può dire nessun altro accertamento medico legale è possibile, bisogna esperirlo, il giudice non può abdicare e nello stesso tempo sostituirsi al medico, ai periti. Deve entrare nel merito e deve capire quali sono gli accertamenti di perità da fare ulteriori. Chiaro avvocato Fabio Anselmo, la ringrazio intanto. Buon lavoro. Prego, scusate la mia prolissità. Ci mancherebbe, capisco. Ma anche è un caso che ci coinvolge da 5 anni e ribadisco, Stefano è stato ridotto in quelle terribili condizioni nelle mani dello Stato. Non ce ne dobbiamo mai dimenticare. Non ce ne dimenticheremo, grazie avvocato Anselmo, grazie intanto, buon lavoro. Altro tema adesso sono le primarie del Partito Democratico che sono state in Liguria. Primarie, possiamo dire, al veleno, perché ci sono state accuse di brogli e di irregolarità. Allora, Raffaella Paita, 40 anni, renziana, assessora regionale alle infrastrutture, ha vinto le primarie del centrosinistra in Liguria per la successione a Claudio Burlando nelle prossime elezioni regionali in Liguria, ma il partito si è spaccato, è nel caos perché il suo avversario, l'avversario di Raffaella Paita, è Sergio Cofferati, che ha annunciato di non riconoscere i risultati e ha paventato l'interesse della procura dopo gli esposti che verranno presentati per un presunto inquinamento del voto dopo numerosi fatti registrati nel corso appunto del voto. Quindi polemiche sulle presunte irregolarità. Secondo i dati ufficiali, Paita ha ottenuto 28.973 voti contro i 24.916 di Cofferati. Allora saluto Sergio Cofferati. Buonasera onorevole, eurodeputato del PD, candidato alle primarie appunto per la presidenza della Regione Liguria, ex segretario della CGIL. Cofferati, lei mi pare che addirittura quando ancora le urne erano aperte ha lanciato le accuse di brogli, di possibili irregolarità. Sì, le ho segnalate al mattino perché c'erano già riscontri molto netti su irregolarità che si stavano commettendo. Tenga conto di seggi aperti con già code di persone non facilmente identificabili fin dall'inizio. In ogni caso, ho detto subito che eravamo di fronte a uno cambiamento delle regole e dei comportamenti delle persone che partecipano normalmente alle elezioni primarie. Poi, come avete visto, il risultato complessivo, la partecipazione è stata alta, ma viziata da due fenomeni negativi. Uno riguarda il voto organizzato del centrodestra e l'altro riguarda il voto organizzato ed etero diretto di nuclei consistenti di stranieri. Infatti Lecco Ferrati ha detto che non era l'unico cinese, sappiamo che è soprannominato così, dice non era l'unico cinese. No, infatti, anzi, sono tanti i cinesi che sono andati a votare. Pensi che la stragrande maggioranza di questi cinesi neanche conosce la lingua italiana, erano accompagnati da un capo di riferimento che dava loro i suggerimenti, le indicazioni per votare e che poi alla fine pagava i 2 euro per tutti, esattamente come dall'altra parte c'erano giovani sedicenni di origine marocchina che sono andati a votare nella piana di Albenga. È noto la passione straordinaria dei marocchini per la politica italiana, esattamente come si sa con quali modalità, non conoscendo la lingua italiana, i cinesi tra di loro discutono del PD e dei suoi schieramenti. Conferrati, questo per quanto riguarda, le dice, cittadini extracomunitari, ma anche dice si è organizzato il centrodestra per far vincere la sua avversaria Paita? Certo, questo è l'aspetto più preoccupante e negativo, perché nel caso degli stranieri, ti riconfermo che io sono contento che gli stranieri votino, però siamo di fronte ad una fattispecie particolare, erano gruppi di stranieri visibilmente non a conoscenza delle ragioni delle primarie e delle modalità delle primarie. Il fatto ancora più grave è quello del voto organizzato del centrodestra, che ha portato a uno snaturamento non solo dello strumento delle primarie, ma addirittura ha costruito un'ipotesi politica mai verificata in nessun organismo, perché persone riconoscibili con incarichi di responsabilità del centrodestra hanno con largo anticipo detto che sarebbero andati a votare le primarie del centrosinistra, avrebbero votato per la Paita per fare poi un accordo con lei per governare la Liguria. Conferrati, che cosa succederà adesso? Che cosa succederà adesso in breve quindi? Io ho detto che non riconoscevo il risultato del voto, ho chiesto che venga svolto per intero il lavoro di accertamento da parte della commissione di controllo di tutti i casi che le vengono o le verranno segnalati nelle prossime ore. Poi, quando il quadro sarà definito e saranno forniti tutti gli elementi di conoscenza, deciderò che cosa fare. Tra l'altro, ho indicato pure l'esistenza di un altro problema: ci sono persone che hanno esplicitamente parlato di fatti di competenza della procura. Io non so se queste persone si rivolgeranno alla procura e ancor meno so quali sono questi fatti, ma se dovesse accadere, e ci sarà anche il coinvolgimento della procura, sarà molto importante per me e per tutti sapere quali sono le richieste, l'indicazione di alterazioni che verranno rivolte anche alla procura. Insomma, io penso che per il mio partito sia fondamentale difendere le primarie, indispensabile il massimo di trasparenza, e soltanto quando la trasparenza sarà garantita anch'io potrò dire qual è la mia opinione ultimativa. Chiarissimo, onorevole Cofferati, siamo anche noi in attesa di vedere che cosa succederà. Allora, intanto la ringrazio e buona continuazione. Grazie a voi, buonasera. Grazie, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci con le notizie. Charlie Hebdo, la polizia è un'agenzia di adesso, ancora 6 terroristi in fuga, quindi non continua la caccia all'uomo in Francia. E poi abbiamo sentito le buone notizie per quanto riguarda Fiat Chrysler, torna ad assumere 1500 nuovi posti a Melfi. Emma Bonino in diretta alla radio che dice: ho un tumore, faccio la chemio ma non rinuncio alla politica. E poi avete sentito per quanto riguarda il calcio, Cristiano Ronaldo che vince il pallone d'oro. Europa 24 notte. E adesso parliamo di Europa. con la vigilia della chiusura, abbiamo detto, della presidenza, alla vigilia della presidenza dell'Unione Europea, il ministro Padoan, dicevamo all'inizio, ha dato queste notizie che nel 2015 la recessione in Italia dovrebbe scomparire. Beda Romano, tu oggi eri a Strasburgo, hai seguito questo discorso, anche il bilancio della presidenza italiana dell'Unione Europea del semestre che sta finendo, appare molto positiva questa dichiarazione, si è esposto il ministro Padoan. Ciao Beda. Sì, buonasera. No, il ministro dell'economia ha cercato di essere ottimista in questa fase di inizio anno. Ha cercato di utilizzare questa sua audizione nella Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo per fare un po' il punto della presidenza italiana dell'Unione che è terminata il 31 dicembre e che domani verrà sancita con un discorso del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Padoan ha cercato di spiegare che dal suo punto di vista la presidenza è stata un successo fondamentalmente perché l'Italia è riuscita insieme ad altri paesi a porre al centro del dibattito pubblico europeo la necessità di rilanciare l'economia. Senza un rilancio dell'economia, senza un ritorno della crescita economica, non è possibile ridurre il debito. Questo è stato il ragionamento dell'Italia in questi mesi e la Commissione ne ha preso atto e l'ha accettato. Il nuovo presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, che è al lavoro dal 1 novembre, ha fatto suo questo ragionamento, tanto che proprio domani, poco dopo il discorso del Presidente del Consiglio dinanzi all'Aula del Parlamento Europeo, la Commissione presenterà due pacchetti. Il primo pacchetto è due testi legislativi con cui verrà creato questo nuovo fondo europeo degli investimenti strategici che dovrebbe a un certo punto creare investimenti per 315 miliardi di euro su 3 anni, e il secondo pacchetto è invece un pacchetto di una nuova interpretazione più flessibile del patto di stabilità sulle regole di bilancio. Ambedue queste misure dovrebbero servire agli occhi della Commissione per rilanciare l'economia. Staremo a vedere, grazie Beda Romano da Strasburgo, ciao Beda. A presto, arrivederci. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Quindi, insomma, avete sentito, sono ore cruciali per decidere sulle questioni di flessibilità, sul patto di stabilità, eccetera, eccetera. Adesso però alleggeriamoci con Dario Ricci e con il pallone d'oro. Dario, ti lancio la palla. A te la parola. Sì, è bella pesante perché è d'oro, è tutta dorata e sicuramente più avvezzo averla tra le mani di me è Cristiano Ronaldo, cara Roberta, che già un'oretta fa sì, è stato incoronato per la terza volta vincitore del pallone d'oro, in questo caso 2014, e come lui solamente campionissimi come Cruyff, Platini e Van Basten. Rimane al top di questa classifica Lionel Messi, questa volta sconfitto, così come è stato sconfitto il candidato che forse aveva raccolto un pochino più di simpatie, no? Perché quel Manuel Neuer, il portiere del Bayern Monaco e della Germania campione del mondo, pensa che nella storia del pallone d'oro solamente Yashin, il russo e il sovietico Yashin, nel 1963 era riuscito come portiere a agguantare il pallone più prezioso di tutti, non c'era riuscito neppure Zoff, secondo nel 73, stavolta neppure Neuer non è riuscito a vincere. Già. Senti, poi ci sono altri palloni d'oro, non dicono sì, i titoli eccetera, c'è anche nel campo femminile, no? Naturalmente assolutamente importanti, perché anche in questo caso hanno dominato i tedeschi, perché l'altro in ordine di importanza è stato quello dell'allenatore migliore del 2014, è stato vinto da Joachim Löw, il CT della Germania campione del mondo, sconfitto in questo caso Carlo Ancelotti, timoniere del Real Madrid, insieme a Diego Simeone, allenatore dell'Atletico. E mentre in campo femminile, dominio del Wolfsburg, dominio tedesco, che visto che le campionesse d'Europa hanno vinto sia il pallone d'oro con la giocatrice, cioè con la Kessler, e anche il titolo di migliore allenatore con Kellerman, che è proprio il tecnico del Wolfsburg. Quindi insomma, inevitabile nell'annata in cui la Germania ha vinto i mondiali maschili questo forte accento teutonico del pallone d'oro, ma Cristiano Ronaldo è più forte anche di questo. Bene, Dario Ricci, dopo questa conquista dorata ci possiamo lasciare qui, caro Dario. Sì, anzi ricordiamo solo che il gol più bello dell'anno è stato quello ancora targato Real Madrid, James Rodriguez, il colombiano che con la sua Colombia ha fatto un gol straordinario ai mondiali all'Uruguay. Anche qui c'era una donna candidata, se ricordo bene. Sì, la Roche, l'irlandese Roche, comunque già importante essere arrivata nella rosa finale. Esattamente, sì. Grazie Dario Ricci, grazie per la completezza di informazione. Ciao Dario, vedevo tantissimi vostri messaggi che sono arrivati sulla questione delle vignette nuove che saranno pubblicate sul momento su Charlie Hebdo, che sarà nuovamente in edicola mercoledì. Sono tantissimi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte e ai messaggi, però tanta interazione stasera. Ci fermiamo qui e poi giusto per riaggiornarvi sulle notizie a tra poco.